Allora volevo darvi il benvenuto a tutti quanti, grazie di essere venuti a questa serata speciale e anche avete così approfittato, anzi avete sfidato il tempo e non è una cosa semplice con questa pioggia e soprattutto avete trovato questa biblioteca. Allora, abbiamo con noi questa sera un ospite particolare che è appunto Valerio Larcher e lo accompagnerò in questa serata con qualche domanda, ma vedo che si è già preparato anche nel materiale visivo. Non è un caso che ci chiamiamo tutti e due con lo stesso nome, abbiamo scelto anche lo stesso colore della maglia. Bene. Perché facciamo questo? Perché Valerio è venuto in primavera così a raccontarmi della tesi che aveva fatto. Non rientrava secondo alcuni criteri nel premio Claudia Augusta, che è un premio che facciamo ogni anno appunto per entrare in possesso di tesi di laurea che riguardano il territorio, però mi ha lasciato qui una copia, l'ho guardata, l'ho letta tutta, dicevo prima che è una delle poche tesi che ho letto dall'inizio alla fine, forse neanche la mia, con grande interesse, mi è piaciuta tantissimo. Neanche io ho letto questa. Ecco, succede così, vero? E quindi abbiamo pensato di inserire questa conferenza proprio all'interno di un progetto che si chiama La ricerca in Alto Adige, che è stato avviato nel 2014 con l'intento di presentare le tesi che ci vengono consegnate attraverso il premio Claudio Augusta, oppure come nel caso di Valerio Larcher, proprio perché ci viene consegnata, e quindi iniziamo un percorso che vuole valorizzare il lavoro, vuole farlo conoscere agli utenti, può diventare uno strumento anche per altre persone e soprattutto mantiene un legame tra la biblioteca e coloro che fanno ricerca e che hanno sempre degli argomenti nuovi da proporci. Dicevo prima a Valerio che il suo lavoro è interessante perché offre al pubblico degli occhiali con cui vedere le cose nuove, non è un modo di accostarci semplice alla cartina, alla carta geografica, all'Atlante, ma ci offre proprio delle prospettive e degli accorgimenti che altrimenti magari noi non sempre cogliamo. Ecco, quindi questa è un po' la missione anche della biblioteca e di avvalersi delle persone esperte che possono sempre darci degli strumenti nuovi. Valerio ha studiato a Padova. Giusto. E continuerà con un dottorato di ricerca adesso con i primi di novembre. A me fa piacere anche avere dei giovani perché vogliamo un po' dargli una spinta in maniera spirituale, perché altrimenti non è possibile, perché non mollino, perché continuino nelle loro ricerche, nei loro interessi, e poi ci tengano al corrente come pubblico, come strutture, di quello che fanno anche attraverso queste occasioni. A te la parola. Grazie Valeria. Ci tenevo a dire che ringrazio molto per la spinta spirituale, ma se il presidente Compace era in ascolto, ci farebbe comodo a noi della ricerca anche una spinta materiale. Spero di non avervi fatto togliere fondi con quest'ultimo battuta. Grazie di essere venuti, stasera sono qui per presentare la mia tesi di laurea e per spiegarne principalmente l'idea che c'è dietro, cioè di usare le carte degli atlanti storici per sapere qualcosa su chi ha scritto gli atlanti storici e sullo spirito del tempo in cui sono stati scritti questi atlanti, più che vedere l'informazione storica che è contenuta nelle carte. E chiaramente mi rendo conto che questa è un'idea eterodossa e quindi per prima cosa spiegherò del perché ho avuto questa idea. Scusate. Va bene. Meglio. Sì, grazie. Ecco. E, sostanzialmente io sono sempre stato appassionato di carte geografiche, ne avevo anche una appesa sopra il letto quando ero piccolo. E quindi sono cresciuto guardando, tipo, mi addormentavo imparando a memoria le capitali. Lo so, sembra una roba un po' spiegati, però era vero. E crescendo ho anche acquistato molti atlanti, sempre geografici, e poi al mio decimo anno di età mi è stato regalato un atlante storico, che è il primo che ho avuto, ed era quello del Touring Club italiano. Era del 1989, cioè del mio anno, quindi all'epoca aveva già 10 anni, e sono rimasto colpito da... Beh, mi piaceva, perché mi era sempre piaciuta la storia e le carte, e ovviamente le carte che parlavano di storia erano ancora meglio. Crescendo però ho confrontato appunto la storia che leggevo sui libri di testo con quella che era riportata nell'Atlante, e vedevo che c'erano delle discrepanze, delle differenze. Alcune cose venivano glissate nei libri di testo, altre venivano glissate nell'Atlante. Man mano che sono venuto in possesso di altri atlanti, ho notato che erano molto differenti uno dall'altro. Contenevano carte diverse, contenevano informazioni diverse, perché un atlante storico non è soltanto, come vedremo, un atlante dove vengono mostrati i cambiamenti di confine, ma è principalmente adesso un atlante tematico, in cui quindi vengono trattati dei temi che vanno dalla demografia all'economia, addirittura la forma dei paesi di nuova fondazione, per dirne una, proprio i paesi di montagna. E poi, venendo in possesso di un atlante tedesco, ho scoperto che gli atlanti in Germania, diciamo, erano completamente diversi, sembravano più dettagliati, contenevano sempre molte più informazioni. Quindi mi sono chiesto il perché, e da questa domanda quindi nasce tutta la mia tesi, cioè perché un atlante di un paese è diverso da quello di un altro, perché atlanti dello stesso paese sono diversi l'uno con l'altro, perché lo stesso atlante è diverso da un'edizione all'altra. E a mio parere si poteva rispondere con questo, a questa domanda, con il fatto che gli atlanti erano a tutti gli effetti delle cartine tornasole del tempo in cui erano stati prodotti. E essendo questa un'idea abbastanza nuova, soprattutto per quanto riguarda gli atlanti storici, non ho purtroppo avuto nessuna o quasi nessuna letteratura su cui basarmi. Sono stati fatti vari studi su delle carte geografiche, ma non su delle carte geografico-storiche. E quindi ho dovuto sviluppare un mio metodo di ricerca per andare a scoprire sostanzialmente i dati, che adesso vi illustrerò brevemente, perché poi passiamo direttamente alle mappe. E sostanzialmente ho elaborato un metodo di ricerca statistico basato su quattro tipi di analisi comparative. La prima è il conteggio percentuale delle carte, del tipo di carte. Come vi spiegavo prima, non esistono soltanto le carte politiche, diciamo, ma esistono vari tipi di carte. Ora, contare quante carte politiche, quante carte etnografiche, quante carte economiche ci sono è particolarmente importante, perché dimostra su cosa si concentravano gli autori dell'Atlante stesso. E la seconda metodo di analisi è il conteggio, sempre percentuale, di carte dedicate a specifiche regioni. Chiaramente ci aspettiamo che in un Atlante tedesco molte carte siano dedicate alla Germania, ma perché per esempio ce ne sono quasi altrettante dedicate all'Italia e poche dedicate all'Inghilterra? Anche questo può essere indice di una volontà non soltanto di ricerca, ma anche di una volontà politica da parte degli autori dell'Atlante. E, ovviamente, tra l'altro, lo stesso Atlante può avere un'evoluzione nella sua percentuale di carte dedicate a una certa regione, e anche questo è interessante da vedere. La terza analisi riguarda la costruzione della pagina. Ora, noi diamo per scontato che un atlante sia storico, metta le carte in ordine cronologico, ma in realtà non sta scritto da nessuna parte che deve essere così, e molti non seguono questo pattern. Anche l'analisi di questo dato è molto importante. Ancora più importante invece è la costruzione della pagina. Affiancare una mappa a un'altra è un'azione molto politica, perché in qualche modo la nostra mente tende ad associare due dati che non necessariamente sono associabili. Dopo vi farò degli esempi. La quarta e ultima, anch'essa molto importante, è l'uso dei colori e delle simbologie. Perché viene usato un dato colore per un dato stato, o perché viene usata per esempio una dicotomia, o perché il simbolo della avanzata di un esercito deve essere per forza una freccia? Anche queste cose qui sono molto importanti. E da questa analisi è emerso che dalla mia analisi che effettivamente è possibile scoprire molto degli autori stessi dell'Atlante e del tempo in cui è stato prodotto attraverso questa analisi. E una cosa, se è possibile, ancora più importante, è emerso il fatto che soprattutto negli atlanti storici italiani e tedeschi, che sono quelli che ho diciamo analizzato di più, emerge una continuità negli atlanti che non, in teoria non dovrebbe esserci. Questa continuità fa sì che un atlante prodotto in epoca imperiale o un atlante prodotto in epoca nazista, per esempio in Germania, non siano così diversi, o comunque non ci sia uno stacco totale, ma ci sia soltanto un'evoluzione graduale. E questo capita, questo riguarda anche gli atlanti prodotti dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è un dato in linea con le ultime ricerche che parlano di una continuità politico-istituzionale e culturale molto marcata sia in Italia che in Germania, qualunque sia il governo in carica. Facciamo qualche domanda? Sì. Allora, tu hai parlato appunto anche di questa lettura politica che si può fare appunto delle carte, poi vedremo anche attraverso gli esempi che ci porterai, ci mostrerai. E puoi dirci qualcosa sul termine geopolitica, che è un termine anche molto usato oggi. Sì. Chiaramente la geopolitica adesso è tornata di moda, tra l'altro interessante, è tornata di moda solo dopo la caduta del muro di Berlino, perché prima non ce n'era bisogno, il mondo era divisibile in due sfere abbastanza facilmente, ma l'epoca d'oro della politica e della geopolitica, scusate, coincide proprio con l'epoca degli atlanti che io ho studiato. E infatti sia la geopolitica ha influenzato molto gli atlanti che ho studiato, e sia gli atlanti che ho studiato hanno influenzato molto la geopolitica. Ora, la geopolitica ha varie definizioni, ma se vogliamo darne una abbastanza semplice, è lo studio, l'analisi della politica internazionale attraverso fattori di natura geografica. Per esempio, è ovvio che la Russia cercherà uno sbocco sul Mar Nero perché è un mare senza ghiacci e quindi può avere una base della flotta che è utilizzabile per tutto l'anno. Tra l'altro mi accorgo solo adesso che ho usato un esempio un po' troppo calzante. Sì, esatto. Quello che volevo dire è che la geopolitica, a differenza di altre branche di studi geografici, storici, umanistici, è una cosa che deve risultare immediata al fruitore. Cioè, io non posso fare un discorso di due ore per dire che dobbiamo attaccare, facciamo finta che io sia la Germania guglielmina, che dobbiamo attaccare la Francia. Ho bisogno di un qualcosa che colpisca il cuore e la mente di chi mi sta intorno, del mio popolo. E quindi diciamo che a partire dai primi anni del Novecento e soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale è stata elaborata un certo tipo di cartografia che è la cartografia geopolitica, cioè quella che sostanzialmente fa uso di simboli, fa uso di colori, fa uso di semplificazioni atte a usare la carta geografica come strumento di propaganda. Ora, molte di queste innovazioni sono presenti fin da subito negli atlanti storici, cioè sono stati molto recettivi, e addirittura alcuni elementi erano presenti prima della che si sviluppasse appieno la cartografia geopolitica, diciamo, allora contemporanea. Ovviamente sono stato molto incuriosito dalla cosa e scavando ho scoperto che uno dei padri nobili della geopolitica, anzi della Geopolitik tedesca, che è Friedrich Ratzel, era in contatto diretto con Friedrich Wilhelm Pupker, che è il creatore dell'Atlantico più analizzato all'interno di questo, di questa tesi. E non soltanto, ma addirittura Pupker ha dato un contributo molto pesante alle teorie geopolitiche di Ratzel stesso, in particolar modo a fare una storia dei popoli attraverso i luoghi in cui, attraverso un'analisi dei luoghi in cui vivevano, cioè sostanzialmente una storia geopolitica dei popoli. Non so, un'altra domanda. Sì. No, mi incuriosiva anche il discorso del colore usato nelle cartine, e se ci sono dei colori ricorrenti per alcune nazioni o per alcune che hanno una simbologia particolare. Assolutamente. Se vuoi possiamo iniziare al suo punto, sì, con le mappe, perché spegniamo, spegniamo la luce? Salute. Almeno solo questa parte centrale, così. No, quella centrale. Quelle laterali si possono lasciare accese. Ok. Allora, le prime due mappe che vi propongo sono in teoria la stessa mappa, tra l'altro presa dallo stesso Atlante. Questa, cioè la Germania del XVII secolo, e questa, scusate, l'immagine fa schifo, ma l'ho trovata nell'archivio storico qui a Bolzano, che è anche la Germania del XVII secolo. Ovviamente, in teoria dovrebbero essere la stessa carta, sono tratte non dallo stesso identico Atlante, ma dalla stessa edizione di un Atlante, ma c'è una differenza: questo era un Atlante germanico e questo invece era un Atlante austriaco. Cosa si può vedere? La carta mostra la Germania al termine della guerra dei 30 anni. Diciamo, in questa si sottolinea la frammentazione politica della Germania dopo la guerra dei 30 anni. Effettivamente il confine imperiale, come potete vedere, è marcato in rosso, però tutti i paesi, tutti gli stati, notiamo la Prussia in alto a destra, hanno un colore proprio. Sì, no, abbassiamo un pochino il volume, okay. Perché sono troppo forte per la casa. Sentite comunque? Sì. Sì. Perfetto. Hanno un colore proprio e si sottolinea come questi stati fossero pienamente indipendenti e come la Germania fosse estremamente frammentata. La stessa cartina, invece, nell'Atlante austriaco mostra come sì, per esempio, c'è un bordo blu che circonda il Brandeburgo per dimostrare che era sottoposto a un'altra casata, ma tutto il Reich è colorato, riempito dello stesso colore, quasi a sottolineare il fatto che era, che non c'era una vera e propria frammentazione, ma esisteva un solo Reich. Ora, perché di questo? È molto semplice. Nella cartina germanica, che era all'epoca ovviamente sottoposta all'egemonia della Prussia, questa qui è una carta dell'inizio del XX secolo, bisognava sottolineare come la Germania, prima dell'unificazione del 1866-71, fosse frammentata e quindi avesse bisogno di essere unita dalla Prussia. Invece in questa cartina austriaca si sottolineava come in realtà non è vero, non aveva bisogno di essere unificata la Germania, perché era già unificata sotto l'impero appunto asburgico. Ho deciso di iniziare con queste due mappe perché sono mappe estremamente di facile lettura, cioè è ovvia l'informazione politica che vuole essere veicolata, grazie, da queste due mappe. E da notare che in tutte e due le mappe però parlando di colori, la Prussia è segnata in blu. E, come sappiamo, infatti esiste anche il colore blu di Prussia. Questo tenetelo a mente perché sarà importante dopo. Allora, ho portato, per farvi vedere invece qualcosa di meno ovvio, due mappe tratte da due edizioni di Agostini. Questa è del 1934, questa invece è del 1966. Ora, all'apparenza non sembrano neanche troppo diverse, mostrano entrambe i fronti, il fronte della Prima Guerra Mondiale. Devo dirvi che, avendo studiato le mappe italiane, le carte italiane, è emersa una continuità quasi sconcertante negli atlanti italiani. Per dirla tutta, dal 1928 al 1971 l'Atlante storico di Agostini è rimasto sostanzialmente lo stesso, diciamo al 90%, ma questa mappa cambia e ho deciso di mostrarvela. In questa, infatti, che è del 1934, di epoca fascista, viene sottolineata l'avanzata delle truppe italiane dopo la battaglia di Vittorio Veneto, come potete vedere attraverso questi colori. E, mentre in questa del 66 viene sottolineata l'aggressione, tra virgolette, austriaca durante la battaglia del Piave, infatti vengono anche mostrate le teste di ponte sul Piave, e quindi la risposta è la difensiva italiana. Ora, la lettura di queste due mappe, anche in questo caso, è abbastanza semplice. Nella prima si sottolinea l'offensività dell'esercito italiano, scusate, tra l'altro anche in maniera abbastanza scoperta, cioè in teoria questa dovrebbe essere la mappa di tutta la guerra e mostra soltanto gli ultimi 10 giorni di guerra. Bella cosa. Perché il regime fascista doveva sottolineare come la battaglia di Vittorio Veneto era stata una battaglia offensiva e che quindi l'Italia aveva in qualche modo annientato le forze austro-ungariche, mentre con l'avvento della Repubblica almeno una cosa che è cambiata è quella di dimostrare che il concetto di italiani brava gente, per dirla tutta, e quindi viene mostrato come l'esercito italiano si fosse difeso in patria, tra l'altro, sulle rive del Piave, e non come fosse un esercito che aveva aggredito l'Austria-Ungheria. Passiamo alla prossima, che in realtà queste sono le carte più importanti che io ho portato. Appunto, Valeria mi aveva chiesto dei colori. Sì. Questo qui è l'esempio principe. Dunque, dovete sapere che nel Puzger, l'Atlante di questa mappa, si è sviluppata fin dall'edizione del 1881, quindi una delle prime, una dicotomia tra il rosso barra rosa e il blu nella creazione delle mappe, cioè sostanzialmente per renderle di più facile lettura avevano deciso di colorare quasi tutte le mappe di rosso e di blu. Per esempio, appunto, se uno stato era rosso, quello a fianco era blu. Perché vi sto dicendo questo? Perché questa qui è una mappa che mostra la cosiddetta colonizzazione Lost-Siedlung dell'Europa orientale da parte degli elementi di lingua tedesca o comunque assimilabili alla cultura germanica durante il Medioevo. Ora, come potete vedere, la popolazione tedesca è rappresentata in rosa e la popolazione slava è rappresentata in blu. Normalissimo, quindi, si usano gli stessi colori che hanno usato in tutte le altre mappe. Attenzione, questa è tratta dall'edizione del Puzger del 1911. Anche dal punto di vista, questo ve lo posso dire io, natura demografica, la carta è fatta piuttosto bene, cioè è poco faziosa. Andiamo però a vedere una mappa tratta dall'edizione del 1925. Ora, in teoria di epoca weimariana. Se noi giudicassimo la cosa da un punto di vista meramente istituzionale, potremmo dire che questa è un'edizione più democratica, perché non è stata realizzata sotto un impero autoritario, ma sotto una repubblica democratica. Eppure non lo è. Cioè, o meglio, è molto più faziosa e quindi molto meno veritiera rispetto alla precedente edizione. Il perché? L'etnia slava qua è stata il colore che si riferisce all'etnia slava è stata sostituita con il verde. Ora, dovete sapere che il verde e il rosa sono colori complementari sulla tavola dei colori, cioè il nostro cervello in qualche modo contrappone automaticamente il verde e il rosa da un punto di vista meramente cromatico, e quindi è molto più facile identificare i verdi col nemico se noi siamo in rosa. Cioè, per un bambino tedesco che vede questa carta, è facile identificare gli slavi come nemici semplicemente perché sono verdi. Inoltre, da un punto di vista demografico, la carta presenta delle distorsioni in più, infatti è aumentata la percentuale di rose in Europa orientale e tra l'altro soprattutto anche nel Tirolo, come potete vedere facilmente. Da qui sembra appunto che solo l'Alto Adige sia di lingua tedesca, di cultura tedesca. Qui invece si prendono una buona parte del Trentino, arrivando quasi fino a Verona. La prossima carta invece è tratta da un'edizione nazista del Pulitzer, esattamente quella del 1935. Innanzitutto va fatto un appunto: questa cartina qua nell'edizione del 1935 non è inserita nella sezione di storia medievale, ma nella sezione di storia contemporanea, quasi a indicare che la colonizzazione è ancora in corso. Come vi dicevo prima, vedere quale carta è affiancata a un'altra è molto importante. Come potete vedere, innanzitutto da un punto di vista demografico è poco veritiera, vengono praticamente fatti sparire tutti gli abitanti slavi della Slesia, della Pomerania e anche del corridoio polacco. Ma cosa ancora più importante, vengono divise le etnie slave seguendo il famoso principio divide et impera, per cui per esempio gli slavi più assimilabili, cioè per esempio i casciubi o altri slavi, i cosiddetti slavi dell'Elba, hanno una colorazione arancione che assomiglia molto più al rosa tedesco che al verde polacco, eppure la loro lingua è una lingua che a tutti gli effetti è un dialetto polacco. E per di più gli slavi stessi vengono suddivisi, e per cui quindi ai cechi viene assegnato un colore marrone, agli slavi del sud viene assegnato un colore marrone un po' più forte, mentre ai veri e propri nemici in quel momento del Reich, cioè i polacchi, viene assegnato, o meglio dire mantenuto, il verde nemico. È importante notare come appunto anche il marrone assegnato ai cechi tutto sommato non sembra stonare così tanto con il rosa, cioè in qualche modo si avevano messo le mani avanti per l'annessione della Boemia e della Moravia, cosa che in effetti hanno fatto anni dopo. Sempre per invece quanto riguarda il confine sud, che magari ci interessa anche di più, si può vedere come è stato fatto ritirare l'insediamento tedesco, incredibile, erano molto veloci all'epoca, e penso come omaggio di Hitler a Mussolini, e cosa più importante, viene fatto completamente a ritirare l'insediamento slavo dall'Istria, che come potete vedere è in basso. La prossima è una mappa che apparentemente è molto simile, e in effetti lo è, ed è dell'edizione del 1937. L'unica differenza sostanziale con quella precedente è che viene fatto arretrare sempre di più l'insediamento slavo in Istria e l'insediamento tedesco in Alto Adige, sempre come ovvio omaggio di Hitler a Mussolini per la nuova alleanza. Ora, da queste tre cartine emerge come innanzitutto l'uso del colore sia molto importante, ed è tra l'altro emerge anche come questi cartografi qua erano andati, se non a scuola di psicologia cromatica, quantomeno ne sapessero qualcosa. E inoltre dimostra come l'evoluzione da una carta tutto sommato come si dice? oggettiva, per quanto può essere oggettiva una mappa, a una mappa completamente fuorviante. È stata un'evoluzione graduale che non ha avuto niente a che vedere, o poco a che vedere, con i cambiamenti politici in corso in Germania in quel momento. Cioè, effettivamente, cosa che poi ho scoperto anche dopo, gli autori di queste mappe, i geografi che se ne occupavano, sono sempre stati indipendenti dal governo centrale e anzi dettavano loro la linea, diciamo, propagandistica del governo più che il contrario. Quindi noi possiamo leggere la continuità, quantomeno culturale, tedesca attraverso la semplice comparazione di queste quattro mappe. Posso fare una domanda? Sì. Volevo sapere che destinazione avevano queste mappe, cioè saranno di uso scolastico oppure militare, o se ci puoi spiegare un attimo. Giusto, grazie. È una domanda che è ottima, perché mi ero dimenticato di dirlo. Tutte queste carte sono tratte da testi scolastici, cioè dagli atlanti storici per la scuola, cioè si chiamavano Pulitzer Historischer Schulatlas, ma in realtà da quanto ho visto comunque la loro destinazione come atlanti per la scuola in realtà non impediva che fossero visualizzati anche da pubblico adulto, anzi avevano una grandissima diffusione. Per farvi vedere come tutto sommato le cose rimangano sempre uguali, vi ho portato questa simpatica mappa che in teoria mostra più o meno la stessa cosa, che però è tratta da un atlante, dal Westermann, del 1967. Non pare che sia molto diversa, anzi in questo caso semplicemente gli slavi non vengono mostrati. Strano, in teoria, a parte che all'epoca tutta la colonizzazione fino alla linea del fiume Oder e del suo tributario Neisse era andata perduta dopo il trasferimento di popolazione in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, però in realtà la mappa rimane abbastanza aggressiva, a dimostrazione che tutto sommato le persone e anche le idee che stavano dietro agli autori di questi atlanti erano le stesse. Conferma di quello che ho appena detto, questa è una mappa tratta sempre dallo stesso atlante, che non mostra le etnie ma mostra la situazione della Germania in quel momento, cioè nel 1967. Ora, come potete notare, la DDR non viene chiamata DDR, viene chiamata zona di come si dice, occupazione sovietica, e tra l'altro nella leggenda in basso c'è perfino tra virgolette DDR, come a sottolinearne che è la cosiddetta Repubblica Democratica, ma in realtà non dispone di nessuna vera sovranità, cosa abbastanza vera tra l'altro. Ma la cosa molto più interessante è il fatto che i territori andati perduti dopo la Seconda Guerra Mondiale sono segnati come sotto amministrazione polacca o sotto amministrazione sovietica, cioè non territori persi e basta. Ora, dovete sapere che nelle mappe, a causa delle mappe geografiche della Germania del 1985, che mostrano più o meno la stessa situazione, quindi almeno fino a metà degli anni 80 e in certi circoli fino alla firma del trattato di amicizia polacco-tedesco del 91, c'era ancora gente, fra cui soprattutto i geografi, in Germania che rivendicava i territori dell'est, la Pomerania, la Slesia e la Prussia, a dimostrazione della continuità pesante della politica propagandistica attraverso il medium degli atlanti storici. Ora, questo qui non era un atlante creato appositamente per la scuola, però io l'avevo trovato al liceo scientifico di Bolzano, quindi direi che quantomeno era utilizzato. Passiamo alla geopolitica, non so se avevi qualcosa da chiedere. No. Ora, questa io l'ho definita la prima mappa geopolitica mai apparsa su un atlante storico, ed è una mappa tratta dall'edizione, diciamo, di guerra del Pulitzer del 1918 esattamente. Questa mappa, per comodità vi faccio vedere, era affiancata a questa. Perché è importante questa cosa? Torniamo indietro. Questa è la mappa che mostra la prospettiva globale della guerra. Come si può notare, quello che salta subito all'occhio è che i tedeschi e i loro alleati, cioè quelli messi in colore rosso barra rosa, sono pochi, cioè, rispetto all'estensione di territorio degli alleati, risultano essere veramente una causa persa. Però, per esempio, vengono mostrati i tentativi di rompere l'accerchiamento attraverso la guerra sottomarina, che è quella zona rosiccia che c'è nel mare intorno, per esempio, all'Inghilterra o a alcune isole dell'Atlantico. Quindi questa mappa qui dice: attenzione, noi siamo in pochi, abbiamo il mondo contro. Però è affiancata a questa qua, che è la mappa cioè della guerra, del teatro occidentale della prima guerra mondiale. Ci sono molte cose da notare. Innanzitutto, la Germania è in alto a destra e effettivamente non sembra toccata dalla guerra. Cioè, è in qualche modo una presenza rassicurante, ma distante dalla guerra vera e propria, che è combattuta, lo dimostrano, soltanto sul suolo belga e il suolo francese. Viene mostrata l'avanzata iniziale tedesca e poi le successive ritirate tedesche, ma cosa importante, le frecce mostrano solo l'avanzata e non viene mostrato, tra l'altro, frecce blu, il famoso blu di Prussia, ma non viene mostrata nessun contrattacco alleato. Sembra quasi che le linee di ritirata siano soltanto delle ritirate strategiche, che quindi siano dovute a delle considerazioni dell'alto comando e non a dei sanguinosissimi attacchi da parte dei franco-britannici. L'affiancamento di queste due mappe cosa vuol dire? Attraverso appunto queste due mappe, sostanzialmente gli autori dell'Atlante dicevano: noi abbiamo quasi distrutto l'esercito francese, siamo arrivati a pochi chilometri da Parigi, come si può vedere, e stiamo tenendo testa tranquillamente a francesi e inglesi. Lo dimostrano le linee di, tra virgolette, ritirata strategica. Quindi se vinciamo siamo bravi perché abbiamo vinto, e perché appunto siamo riusciti a conquistare buona parte del Belgio e quasi tutta il nord della Francia. Ma se perdiamo perché abbiamo tutto il mondo contro. Quindi era come mettere un po' le mani avanti. Questa qui è una dei primi esempi di propaganda pura all'interno di un Atlante, ed è per questo che io la chiamo la prima mappa geopolitica. Perché? Perché innanzitutto fa uso soltanto di pochi colori, è facilmente leggibile ed è affiancata a un'altra mappa in maniera spacciatamente propagandistica. Chiaramente col progredire della cosa si sono affinati, quindi scusate per la qualità della mappa, ma ho avuto molte difficoltà a reperirla. Questa qui è la stessa mappa, tratta però dall'edizione del 1925, in cui addirittura le due mappe sono messe una sopra l'altra, cioè non in due pagine diverse, benché affiancate, ma una sopra l'altra. Per di più viene mostrata, vado un po' veloce, le zone di occupazione nella Ruhr, perché era appena terminata l'occupazione della Ruhr all'epoca, come per dire: guardate che cattivi i francesi che ci hanno invaso. E cosa ancora più importante, cioè quasi che fa quasi sorridere, come potete vedere le linee, cioè le frecce e le linee tedesche stavolta sono rosse e non blu, perché una cosa di cui si era occupato particolarmente il nuovo governo weimariano era dimostrare che la Germania non era un'espansione, un'estensione della Prussia, ma era uno stato nuovo. La Germania era uno stato di tutti i tedeschi, non solo dei prussiani. E quindi durante tutta l'epoca weimariana il colore della Germania venne cambiato ufficialmente in rosso, e anche le frecce e tutto quanto. Procedo. Allora, vediamo, questa qui invece passiamo direttamente all'epoca nazista. Come potete vedere, per molte cose si sono comportati in maniera tradizionalista, quindi hanno restaurato il blu di Prussia e hanno e si sono dati da fare dal punto di vista geopolitico. Come potete vedere, la mappa in alto mostra innanzitutto il territorio del Reich come era prima della prima guerra mondiale e non come era quindi all'epoca in cui è stato stampato questo in questo atlante. Poi mostra in un blu un po' più sfumato, in un azzurro diciamo, territori etnicamente puramente tedeschi che erano in qualche modo stati staccati dal Reich, e inoltre mostra come il Reich sia stato attaccato varie e varie volte durante i secoli attraverso quelle frecce. Da di più dimostrava come appunto allo scoppio della prima guerra mondiale, nella mappa sotto, il Reich fosse già perfettamente accerchiato, il Reich e i suoi alleati, in questo caso l'Austro-Ungheria, e che quindi la guerra era stata una guerra puramente difensiva. Tra l'altro notare di nuovo l'uso dei colori rosso contrapposto al blu. Questa è una mappa proprio sfacciatamente geopolitica, cioè è di facilissima lettura. Come potete vedere, sono state utilizzate anche delle linee continue che vanno a sottolineare l'accerchiamento del Reich. Passiamo invece a un altro tipo di propaganda sempre nazista, in cui loro erano dei maghi. Diciamo che questa qui è una mappa che mostra l'Ausland Deutschtum, cioè la germanicità all'estero. Cosa vuol dire? Vuol dire i territori in cui erano presenti almeno un tot di tedeschi, quindi ovviamente il Reich, però anche per esempio i territori in cui c'era stata una forte immigrazione tedesca negli Stati Uniti o in Canada o in Sud America, in Australia, eccetera, oltre che le ex colonie tedesche. Qual è il punto di questa carta? È che le sfumature fra il rosso più rosso, che indica territori dove ci sono solo tedeschi, e il rosso meno rosso sono talmente impercettibili che a un occhio disattento sembra che tutti questi territori siano abitati esclusivamente o quasi esclusivamente da tedeschi. Questa qui quindi è una mappa estremamente, cioè di natura incredibilmente geopolitica, perché effettivamente il messaggio che vi veicola è fuorviante, ed è fuorviante in maniera consapevole, perché loro effettivamente poi nella leggenda mettono i dati reali, però all'occhio non sembra così. Questa qui poi invece è sempre una mappa tratta da un'edizione nazista, ed è particolarmente interessante, ed è uno dei, diciamo, capolavori di come affiancare le mappe può avere un significato politico. Dunque, le mappe a destra e in basso mostrano, una la diffusione degli israeliti, insomma, di chi professava la confessione ebraica in Germania, quella sotto la stessa, la diffusione in sostanza degli ebrei in Europa, e quella in basso a sinistra le migrazioni delle varie etnie ebraiche, ashkenaziti, sefarditi, dopo l'espulsione degli ebrei dalla Palestina effettuata sotto Adriano. E quindi questa qui sembrerebbe semplicemente una carta che si dedica, una pagina che si dedica alla storia ebraica. E invece no, perché la cartina in alto a sinistra mostra gli omicidi o presunti tali commessi dai comunisti ai danni dei nazisti e dei loro camerata nazionalisti fra il 1919 e il 1934. Quindi per un bambino, perché ricordiamo sempre che questo era un atlante per la scuola, o anche per un adulto, era facilissimo identificare i comunisti e anzi gli assassini comunisti con gli ebrei. Ora questo è spacciato. Esatto. Per di più, notare un ultimo dettaglio in questa mappa: nella prima, quella in alto a sinistra, vengono mostrati anche i confini del 1919. Questo perché? Perché in una riunione dell'Associazione Cartografi Tedeschi del 1932 era stato imposto che ogni mappa della Germania mostrasse anche i territori perduti, come per dire che questi territori qui andavano ripresi assolutamente. Prossima, questa è una mappa che contiene l'essenza della geopolitica. Viene mostrata una mappa del Reich, nel suo ormai tradizionale blu di Prussia, e delle zone industriali del Reich, come potete vedere quei simboletti delle fabbriche, e che è il raggio d'azione dei bombardieri dei possibili nemici della Germania. Si voleva praticamente dimostrare come la Germania fosse vulnerabilissima in quel momento da parte di attacchi provenienti da qualunque nazione, anche le più diciamo sottosviluppate o le più povere, o comunque quelle meno forti militarmente, come poteva essere la Cecoslovacchia o la Polonia. Perché geopolitica? Beh, innanzitutto per l'uso dei simboli, uso dei simboli degli aerei, delle fabbriche, dei raggi, e anche perché, cosa interessante, se voi notate, tutti gli aerei, gli aeroporti da cui provengono questi bombardieri, queste flotte destinate a distruggere il Reich in una tempesta di fuoco, come poi effettivamente è successo, ma non da questi, sono tutte città che erano o tedesche o austro-ungariche prima della prima guerra mondiale, a parte quelli provenienti da Londra e da Minsk, che però stranamente sono fuori mappa. Quindi era come da dire: non solo ci distruggerete, ma lo fate perché avete occupato le città che sono già nostre, quindi se noi riprendiamo queste città che erano nostre, voi non potete più farlo. E vediamo se c'è un'altra mappa. No, questa era l'ultima. Bene, la parte quindi delle mappe è finita, e spero di essere riuscito a farvi capire come si è sviluppata la mia analisi e su che basi era stata sviluppata. Ti faccio ancora una domanda. Un errore macroscopico che ti è saltato all'occhio guardando queste carte? Ah sì, interessante. Per far capire che un po' i tempi sono cambiati, vi dico che ho analizzato anche delle carte di atlanti attuali, in particolar modo di un atlante storico tedesco stampato nel 2012. Cosa ho scoperto? Che in una mappa che mostrava l'Europa nel 1871, per errore il Trentino Alto Adige era già assegnato all'Italia, come per dire che insomma in Germania, se addirittura degli storici non sono stati attenti a questa cosa, significa che si sono proprio scordati di noi. Ecco, va bene. Comunque appunto, attraverso l'analisi che ho effettuato, spero di essere riuscito a dimostrare che è possibile usare gli atlanti storici nella maniera in cui ho spiegato, e io continuerò a farlo. Infatti il tema del mio progetto di dottorato di ricerca è proprio andare ad analizzare tutti gli elementi di continuità negli atlanti di queste due nazioni. Grazie. Ecco, grazie Valerio, tanti in bocca al lupo allora. E noi continueremo con la nostra attività di promozione alla lettura, spostandoci però prossimamente, già a partire da lunedì prossimo, al Centro Trevi oppure al Teatro Cristallo, così abbiamo più spazio, siamo un po' più visibili, e i programmi delle nostre attività li trovate sulla sedia, potete iscrivervi. È tutto gratuito e semplicemente così per mantenere il contatto con noi ed essere aggiornati sulle nostre iniziative. Ricordo sempre che il lunedì e il venerdì, anzi no, pardon, il mercoledì e il venerdì pomeriggio organizziamo dei brevi incontri per così far vedere i nostri servizi online, quindi chi ha piacere può venire, viene spiegato come si leggono i giornali online anche da casa, da un normale computer oppure dal proprio telefonino. Ti rinnovo gli auguri per la nuova avventura. Grazie. Vi ringrazio per l'attenzione di essere venuti in questa biblioteca, sperando di rincontrarvi. Una buona serata a tutti quanti. Grazie.